Piccoli problemi di cuore e ale ale ale ho ho. Che bella notizia! Allora ragazzi, è ufficiale, da lunedì ci troverete su Rock FM. Ragazzi, che bello! Ci divertiremo come mai. Ma non fai colazione? Aspetto l'ispirazione. Scegli una colazione diversa. Scegli pane, burro e rock and roll. Scegli una colazione diversa. Pane, burro e rock and roll. 7:40 secondi. Vi parla l'Ariele, da una parte del mixer, dall'altra parte il nostro regista Spadino e Roberto Fricantoni come il prezzemolo. Anche quest'oggi verrà a trovarci qui negli studi di Rock FM per condurre una spumeggiante, scintillante, frizzantissima puntata di pane, burro e rock and roll, già programma di culto. Puntata 03, sigla! E se oggi prima della sigla infilassimo la dita nella presa? Sì, a 220 però, così per riprendersi. Buona idea, Spadino. High Voltage, l'alto voltaggio di AC/DC. Mercoledì 5 di settembre, bella idea Spadino, eh? sfruttare come pre-sigla AC/DC di High Voltage, quello che ci vuole, un alto voltaggio di rock and roll per iniziare al meglio questo ventosissimo mercoledì mattina. Copritevi che fa freddo, lo dico a voi che non siete ancora usciti. Ah, mi piace un sacco fare radio di servizio. Metti il maglioncino, va. Pane, burro e rock and roll. Poi dopo lo togli nel corso della giornata. La tua colazione rock. Intanto non ti pigli un accidente lì adesso. Pane, burro e rock and roll. L'Ariele vi cura. Ci siamo, ragazzi. Fino alle 9. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata. No, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Ogni giorno alla mattina ascolta Rockers. Non la troverete da altre parti, la cortesia, la professionalità, la simpatia che potete trovare a Rock FM dalle 7 alle 9 del mattino in rigorosa diretta, preceduti anche quest'oggi dal nicotomane, si può dire? Direi di sì, dal nicotomane e caffeinomane Chuck Bird. Salutiamo, aloha, hasta luego, bye bye, a domani. Tornerà a tenervi compagnia dalle 6 alle 9 domattina con tutti i suoi aneddoti, tutta la sua buona musica, buona musica che avremo anche noi. Si vedrà di interagire insieme, oltre che di sparare parecchie stupidate, come di consueto. Un saluto anche alla mia spalla destra, ovvero Mr. Trombetta, che già in queste prime tre puntate è stato richiesto da parte degli radioascoltatori e delle radioascoltatrici, perché c'era bisogno di lui, e da subito, anche nella seconda stagione di Pane, Burro e Rock and Roll, controlleremo l'efficacia reale della fortuna della nostra trombetta di ferro. Con noi anche la mucca Camilla, che non ha questi superpoteri ma ci tiene compagnia. Direi che manca solo Freak, ma ce n'è di carne da buttare al fuoco anche quest'oggi. Sicuramente l'asso nella manica è il buon rock and roll. Avete bisogno della sveglia giusta? Siamo qua apposta. Moving on up, ladies and gentlemen, Primal Scream. Questa è roba forte. I was blind, now I can see. You made a believer out of me. I was blind, now I can see. You made a believer out of me. I'm moving on up now, getting out of the darkness. My life shines on. rock and roll. La tua colazione rock. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. A tenervi compagnia per tutta la stagione, fino a quanto ce la faremo, pane, burro e rock and roll fino alle 9 del mattino. Sentivo la mancanza della sua Harley Davidson. Dove parcheggio l'Harley? La parcheggi pure qui, la parcheggi pure qui. Ma la fanno salire in ascensore con l'Harley Davidson? Sì, nessuno mi fa salire, salgo da solo. Roberto Fricantoni è l'appuntamento con l'almanacco del giorno, sempre se le va. Naturalmente sì, l'ho spiazzata, lei si aspettava il no. Io mi l'ho veramente spiazzato. L'ho spiazzata. Allora, non ha spiazzato invece Spadino, che già in sottofondo ci aiuta con l'almanacco del giorno che fu. E allora io vi dico, vi comunico una notizia sensazionale riferita al 5 settembre, ma del 1698. In un tentativo di allontanare il suo popolo dalle tradizioni asiatiche, lo zar Pietro I di Russia impose una tassa sulle barbe. Badate bene, barbe. Tutti gli uomini, eccetto sacerdoti e contadini, dovevano pagare una tassa di 100 rubli l'anno per portare la barba. Lei... Io avrei dovuto pagare. Avrebbe dovuto pagare. A meno che... Beh, potrei essere... Però potevo essere un sacerdote. Chi gliel'ha detto a lei? Ah, lei... Mi camuffavo. Beh, il ruolo da contadino, no? No, preferivo il sacerdote. Servo della gleba. Sì, no. Decisamente. Eliminiamo. Passiamo al 5 settembre, ma del 1960. Pugilato! Il grande Cassius Clay, poi riciclato, sì... Se così posso dire senza offesa, in Muhammad Ali vinse la medaglia d'oro nel pugilato ai Giochi Olimpici di Roma. Grande Cassius! Grande Cassius, veramente uno dei più grandi pugili di tutti i tempi. E passiamo a una ricorrenza elvetica nel 1980, il 5 di settembre, viene aperta la galleria stradale del San Gotardo. Sì, sì, che è il più lungo traforo autostradale del mondo, con una lunghezza di 16 chilometri, signori. Da Göschenen. No, no, lo ridica, c'è la dieresi. Ah, scusi, Göschenen. Ancora meglio? Göschenen. Come potrebbe essere? Göschenen. Göschenen. Göschenen. Ad Airolo. Ad Airolo. Un gran traforo. Che traforo, ragazzi. Viva il traforo. E chiudiamo con una bella notizia che porta l'Italia in giro per il mondo. Esatto, un orgoglio tutto italiano. Sappiamo che il 5 settembre del 2003 Dino Meneghin, il grande giocatore di basket, il grande cestista italiano Dino Meneghin, è il primo pallacanestrista italiano ad essere inserito nella prestigiosa Basketball Hall of Fame. Uè, chissà quando mai ci metteranno anche a lei, Freak, sulla Basketball Hall of Fame. Sì, appena riesco a falsificare tutti i documenti, io penso di avere qualche chance, ma rimanga tra noi. There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamplight. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong, for I know what I do must be wrong. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon. Ago that I became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. Now I can never show my face at noon, and you'll only see me walking by the light of the moon. Brim of my hat hides the eye of a beast, of the face of a sinner, but the hands of a priest. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon. of New Orleans. She's innocent and young, from a family of means. I've stood many times outside her window at night to struggle with my instinct in the pale moonlight. How could I be this way when I pray to God above? I must love what I destroy and destroy the thing I love. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. Scendono in campo tutti i pezzi da 90 di Rock FM. Sting con la sua Moon over Bourbon Street, i nostri pezzi da 90, dicevo, per svegliarvi nel modo giusto nel mattino di Rock FM, svegliarvi oppure tenervi compagnia se già impantanati nel traffico. Qualsiasi cosa voi stiate facendo, benvenuti sulla vostra stazione rock preferita, per l'appunto Rock FM. Anche quest'oggi vi ricorderei la linea di contatto principale per entrare nei nostri studi. Siete i benvenuti e le benvenute, è un classico numero di SMS al quale potrete inviare il vostro messaggio: 335 100 77 77. So che poi non ci tenete a scrivere a noi, cioè, insomma, a me, a Frico, a Spadino, più che altro scrivete a Mister Trombetta e fate bene, come per esempio fanno quest'oggi per prime da Prato l'amica Loredana e Patrizia, così si firmano, che hanno terribilmente bisogno di una strombazzata, come è giusto che sia, visto che le hanno fatte rientrare al lavoro 3 giorni prima, mi scrivono, che sfiga. Sono molto importanti queste segnalazioni, cari amiche, perché tutti gli altri possono gioire del fatto che a voi è andata peggio. Però vi stimiamo lo stesso, anzi vi stimiamo ancora di più. Un saluto anche a Marco, già che ci sono, visto che mi sono buttato sugli SMS, arrabbiatissimo perché non trova nei negozi il chinotto e giustamente chiede un aiuto a Frick, che confessa non può fare granché per la distribuzione della bevanda chinotto nel nostro paese, se non continuare a promozionarla così solo per amore della stessa. Chiede se deve comprare spuma. Beh, se proprio il chinotto non c'è, la spuma può servire, no? Si fa di necessità virtù. Un ultimo saluto e ci trasferiamo anche a Genova per salutare Dario, che proporrebbe una succursale consociata di Rock FM negli States, con un programma mattutino che si potrebbe chiamare, propone Dario, Uova, Bacon e Rock and Roll. E perché no, Dario? Bella idea, grazie. Grazie per la segnalazione. Ma scende in campo anche Bruce... Oggi c'ho la scende in campo, Spadino, che è così calcistico. Bruce Springsteen, Spirit in the Night. Crazy Jane and a Mission Man.